se non lo so, certo mi ti incontrerò. Faccio la serenata a chi non vedo, faccio la serenata a chi non sento, ad un amore che non ho incontrato, ma che mi dice il cuore incontrerò. Oh anima gemella, oh anima sorella, dove sei, dove sei, dove sei? Se l'aria la tua luce, il vento la tua voce, dove sei, dove sei, dove sei? Tu vivi in qualche angolo di mondo, ma invano il cuore mio ti va cercando. L'amore si raggiunge ma soffrendo, la gioia si conquista ma aspettando. Oh anima gemella, oh anima sorella, vieni a me, vieni a me, vieni a me. Il sole non si spenga, la notte mai non venga, prima che io veda te, prima che io baci te, amore mio. Certo, ti incontrerò.